Secondo me bisogna proporre delle emozioni che loro riconoscano e dei personaggi che loro riconoscono, che sappiano riconoscere. Questa è la cosa fondamentale. Infatti il problema è che loro possano riconoscere in quello che accade nel libro qualcosa che in qualche maniera accade anche a loro. Ovviamente per quanto riguarda questo libro pochi lettori saranno andati a Tokyo e avranno vissuto un'esperienza come quella di Enrichetto Cosimo, però le emozioni che vive Enrichetto Cosimo, che molto spesso di fronte alle situazioni che gli accadono rimane, come dice lui, ebete o abete, perché si immobilizza di fronte alle situazioni che lo scioccano, che lo emozionano molto, ecco, io credo che questa sia una tipica emozione adolescenziale. Oddio, io da adulto rimango ebete abete molto spesso, ma insomma, ecco, credo che l'importante sia proprio quello di parlare di emozioni che i lettori sappiano riconoscere.